Storielle. Storiacce. I rapporti di parentela come garanzia di segretezza, una impenetrabilità inizialmente solo geografica, diventata poi proverbialmente caratteristica dell'andrangheta. Ma se l'onorata società calabrese è arrivata a diventare, per unanime ammissione, la più pericolosa tra le organizzazioni malavitose, lo deve anche all'appoggio di quell'ampia zona grigia di chi la favorisce o la accetta. Commercialisti, funzionari, come conferma a Lionello Mancini un ex andranghetista, Saverio Morabito, uno dei pochi pentiti. Passiamo, come dire, all'area grigia. Secondo lei, per essere così potente nel controllo del territorio, l'incalabile andrangheta ha questi agganci addentellati, nella sua esperienza per esempio, queste aree di professionisti, di persone che si prestano, che mettono anche le competenze a disposizione di questo giro di soldi che comunque è notevole, anche se nessuno lo quantifica. È importante questa cosa oppure... È importante, È importante, anche perché i soldi, c'è un vecchio detto che dice i soldi fanno la guerra, senza soldi non si va da nessuna parte. Yes. Quindi i soldi servono per ungere, servono per fare regali, per aggiustare processi. A differenza di altri, le famiglie di indranghetisti che hanno dei congiunti in carcere riescono comunque a ridurre la pena al loro congiunto ottenendo delle agevolazioni a lungo termine. E agevolazioni di sconto, di sconto di pena o di trattamento carcerario, perché all'inizio potrebbe creare scalpore una notizia di questo genere, quindi allora è preferibile aspettare a lungo termine, e noi sappiamo aspettare. Volevo portare un esempio di un fatto che era successo a Platini. Io qui al nord stavo con i fratelli Sergi. I fratelli Sergi sono cugini dei Marandò. I Marandò erano un gruppo di parecchi fratelli, che mi sembra che adesso due o tre siano stati eliminati fisicamente. Uno di questi era stato eliminato a Platini verso la fine degli anni Ottanta da altri compaesani che appartenevano alla famiglia Musitano di Platini. Erano dei ragazzi che andavano a compiere dei furtarelli o per una, diciamo, discussione durante lo spartimento del bottino o non si sa per quale ragione, questi Musitano hanno ammazzato questo Marandò e lo hanno scaraventato in una discarica. Viene ritrovato questo Marandò morto, assassinato, fanno una piccola indagine i Marandò e i Sergi e vengono a capo dell'autore del paese. Non succede niente. I capoccioni, intuendo, cioè venendo a conoscenza di chi era stato l'autore dell'omicidio, chiamano i Marandò, chiamano i Sergi e cercano di acquietare la cosa per far sì che non dilaghi. Non comincia. Inizialmente è stato tutto acquietato. Uno dei Musitano, che era stato tra gli autori, Rocco Musitano, faceva la spola tra Platì e Bareggio, il paese della provincia di Milano, perché a Bareggio c'era la zia, lo zio. Lo zio era un altro Musitano, Ciccio Musitano, che era stato coinvolto in sequestri di persone giù in Calabria con altri boss. La moglie di questo Ciccio Musitano era la sorella di Per Francesco e di Per Giuseppe de Tumaistro, che compare con Antonio Delfino, che era stato coinvolto Ciccio Per nei sequestri di persone. E tutto un impastamento lì. I Sergi decidono di uccidere Rocco Musitano. Aspettiamo, sono passati degli anni intanto. Quindi anni dopo? Anni dopo. Si è verificato un fatto che Sergi Francesco è stato incarcerato per un residuo pena e mentre lui era incarcerato, per evitare che venisse sospettato, essendo lui in carcere, io e Trimboli Francesco ammazziamo Rocco Musitano. A seguito di questo omicidio, a Bovalino, viene ucciso un altro Musitano, Ciccio Musitano, detto Ciccio La Tazza, che era parente di quest'altro. Quindi è iniziata la decimazione del Musitano. Nessuno interveniva, perché perché se fossero intervenuti la cosa sarebbe dilagata a macchia d'olio. Si è chiusa lì, perché poi siamo stati arrestati tutti, quindi la cosa si è finita lì. Faccio un esempio, che dalla Calabria si è iniziato qui a Milano. Sì, sì. A me non me ne fregava niente di andare contro in musica. Certo, certo. Però è normale, io sono dentro in un giro. A omicidi e sequestri ha partecipato anche lui, Saverio Morabito, nella sua precedente vita, prima che un magistrato e degli agenti incontrati nel suo percorso giudiziario conducessero in porto il cammino del pentimento e lo traghettassero sull'altra parte della barricata, dove la vita è completamente diversa e anche i segni esteriori, efficaci spie, a suo dire, di ricchezze ingiustificate che nascondono illeciti guadagni. Diciamo, manifesta un tenore di vita superiore alle sue possibilità, o comunque incompatibile con quello che è normale che debba essere, diciamo, oggetto di indagine da parte della finanza o da parte del fisco. Ma sa cosa ho l'impressione? Di queste robe qui, per esempio, che le dice giustamente l'americana, si arenano banalmente sul fatto che Morabito ha un tenore di vita non compatibile, eccetera. Vanno a vedere, tutto intestato, Ma non è vero. Vabbè, quindi cosa vuol dire? Se loro... E la legge deve consentire di colpire anche i beni che... Allora, se loro... è molto semplice. Se la polizia mi indaga... mi controlla, io ho l'automobile, a volte anche due. Gli ostacoli dello Stato, un affiliato dell''ndrangheta impara subito a raggirarli e neanche con difficoltà, racconta Morabito, che rivela anche le infiltrazioni delle 'ndrine sugli appalti della metropolitana di Milano. Molti anni fa è stato ucciso uno dei fratelli Papalia a Prati, Pasquale Papalia, da un suo amico stesso. Cioè, lei mi deve spiegare, se andiamo indietro negli anni, i barbaro che hanno cani, escavatori, ruspe, prendono appalti a destra e a manca, se andiamo indietro guardare negli anni, da dove hanno preso questo input di denaro per iniziare l'attività e acquistare i camion. Le faccio un esempio praticissimo. Ipotesi, lo Stato confisca tutti gli automezzi per movimentazione terra, certo, camion, scavatori, ruspe, a tutti questi nuclei mafiosi. Loro non prendono più appalti. Chi svolgerà i lavori stradali, i lavori di manutenzione, di assistenza pubblica? Imprese che vengono da fuori. Imprese che vengono da fuori cominciano a subire attentati, non lavora più nessuno. Allora a questo punto lo Stato deve accettare che gli appalti li facciano quelli del posto, quindi vuol dire manifestare debolezza. Sembra un discorso però senza via d'uscita. Perché... Senza via d'uscita perché? Perché lo Stato non colpisce nell'economia. E l'obiettivo, secondo me, è sempre quello l'elemento determinante. Il comune denominatore sono i soldi. Ma questo qui è un ragionamento che fa lei adesso, però, o lo faceva anche quando svolgeva quelle attività, cioè dire... Ma certo, quando io ero dall'altra parte della barricata, cercavo di ragionare per evitare tutti questi ostacoli. Ma questi ostacoli li trovava molto complicati? Ma no, assolutamente no. Prendiamo ad esempio la famiglia Barbaro. Sì. Loro sono pregiudicati, hanno dei precedenti penali, quindi non possono... Sì. Non possono accedere a gare d'appalto e via dicendo, cioè, quindi fanno agire dei prestanome. Se non trovano il prestanome, oggigiorno hanno i figli adulti che si sono diplomati, si sono laureati, quindi agiscono i figli. Che cos'è cambiato? Da Bucinasco ad Assago, adesso vive, la sua famiglia vive ad Assago, sua moglie ha un'impresa di movimento terra, ma non perché l'ha creata lei, perché lui ha comprato il primo camion con i proventi illeciti, ha visto che si poteva inserire, ha capito che poteva inserirsi dentro negli appalti perché si presentava come Rocco Papalia e tutti un po' si spaventavano, un camion ha generato un altro camion, così un altro camion, lui non se la poteva intestare perché era pregiudicato, ha intestato la moglie la ditta e quindi adesso prolifera, ha preso appalti o subappalti comunque alla metropolitana di Milano e in altri posti. Addirittura. Certo, è storia questa, non è solo palle. Però senta, lei ha avuto appunto dei trascorsi molto, diciamo, difficili, molto brutti. moltissimi. Lei ha anche commesso degli omicidi. Certo. Quindi diciamo che molto più di così non si può fare. Ho letto anche che lei ha addirittura, non so se ha partecipato, comunque ha addirittura visto dei sequestrati nelle loro carceri. Sì, visto. Allora, lei non è la dimostrazione che in realtà da questo tipo di cultura su cui lei getta un'ombra così pessimistica si può uscire, cioè si può cambiare testa? No, quello che ho fatto io l'ho fatto come una professione, che ho cercato sempre di farlo al meglio. E questi ragazzi di Lotti cosa ne pensa lei? Sì, c'è di buono, c'è qualcosa di buono, però hanno paura. Non riusciranno. È molto difficile. Il pessimismo di Saverio Morabito, che trapela in modo esplicito in questa intervista a Lionello Mancini, poggia su ragioni ancestrali che riconducono alle asperità dell'Aspromonte, dove lui, una volta saltato il fosso, non è più tornato. Di proprietà in affitto, quindi bisogna andare a vedere il contratto di affitto, che lavoro svolgiamo noi, i figli, dove vanno a scuola, come si vestono, cosa mangiano, dove si spostano, cioè puntare un soggetto e fargli una radiografia. Certo. Non andiamo a vedere perché un commerciante non ha emesso uno scontrino per una tazza di caffè da 80 centesimi e gli danno una multa salatissima perché non ha emesso lo scontrino di 80 centesimi e lasciamo che uno incameri denaro tutto spiano e poi viaggi in Ferrari, in Mercedes, in Volvo e macchine che costano. Per esempio, lei è al corrente di questo fatto sicuramente che sempre nella lotta alla malavita in questa chiave, quando anche vengono sequestrati dei beni, ora che si arriva alla vera confisca passano degli anni e non di rado questi beni vengono riacquisiti non magari personalmente da lei Morabito, ma magari da qualcuno che lei incaricati. Certo, questa è una falla molto grave, bellissima. Ma devono essere confiscati completamente, neanche messi all'asta, nemmeno messi all'asta, confiscati e concessi alle varie istituzioni che ne hanno bisogno. Una parte di questi beni, per esempio, li sta utilizzando, come si parlava prima appunto di Bregantini, e tra l'altro con una caratteristica che ha suscitato un po' di polemiche in Calabria, cioè che Bregantini cerca di attrarre in queste cooperative, in questi terreni in cui lavorano, in cui coltivano, di attrarre anche i giovani di queste famiglie, che vengono da famiglie, diciamo così, a rischio, o anzi, insomma, che, secondo lei questo qui, come dire, è un eccesso di fiducia, è un esperimento? Potrebbe anche essere un esperimento valido, però non dimentichiamo che i calabresi hanno una testa durissima. Se fanno finta di subire uno smano, perché in quel momento gli conviene così. Appena passata la piena, guardi, tirano su di nuovo la testa, ma i malavitosi sono tremendi. Detto da lei non ci crede, diciamo. Guardi. Tremendi e arcaici come il ragù di capra che accompagna i pranzi di lavoro dei boss.